collegio cielo più un bar potrà. Lei crede che adorerà, io penso vedo delle nubi in me, su questo capio leggo ignora, pronta a scoppiar la folgore del cielo. Udini, padre, d'appose stesso, il tuo sinistro di voi, Rodrigo, salvarti possi. Sente.